storia di ogni uomo è scritta sul suo viso, sul palmo delle mani, negli occhi, nel sorriso. E se vorrai conoscerla, ascolta i suoi silenzi, che parlano di sogni e di realtà. La storia di ogni amore è scritta sulla pietra, nei vortici del vento, nei versi di un poeta, perché per ogni cuore c'è gioia e c'è dolore, dolcezza e perfino crudeltà. La storia di ogni stella è scritta su nel cielo, tra nuvole d'argento ed un fruscio di ali. Il sole del tramonto insegue un'altra luna in fondo all'universo e dentro di